con la piedad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza parlare. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi in cielo, e tu ed io che stavo zitto, io per non rovinare tutto, io e tu che... e poi non mi ricordo. Buongiorno a tutti, oggi la trasmissione che si parlerà di amore. Abbiamo preso spunto da un film chiamato Eclissi di Antonioni e adesso vorrei far sentire un pezzo tratto da questo film. Vorrei non amarti, amarti molto meglio. In questo video si vede la scena di una donna che di Monica Vitti che forse sta parlando con il suo uomo, però si vede solo lei e alla cioè vorrei far intervenire qui i miei colleghi. Cosa gli ha trasmesso, cosa gli ha dato, che cosa gli ha portato spunto questo pezzetto. La parola a Franco. Questo pezzo mi ha trasmesso che ci sono molti modi di amare, ognuno la pensa nel suo modo, quindi c'è amare impazzire, amare passione. Allora, adesso vorrei interpellare Lidia. Mi ha messo in contatto tra l'amore e l'odio. Amare molte volte scaturisce da una forma di passività e di odio. L'amore è qualcosa di sublime, di superbo, di enorme. Con esso si fa di tutto, si concepisce, si genera, si cresce. Chi non ama non è vivo, è morto. Come mai tu hai detto odio? Viene anche da una forma, da un retaggio antico che diceva l'odio porta all'amore. Ok, grazie Lidia. Adesso voglio interpellare Giulia. Niente, questo pezzo di film mi ha fatto pensare all'amore come appunto una cosa un po' confusa, che fa bene però fa male. Quello è normale, che fa bene e fa male. Citica, signorina Giulia. Nulla, per me è un po' fantasia, confusione, odio e amore insieme, una contrapposizione che c'è sempre. Quindi, grazie a te Giulia. Adesso voglio interpellare Mario. Allora Mario, l'amore per te che cosa è? E cosa ti ha... È una cosa reale. Che cosa ti ha trasmesso questa scena di questo film? È un potpourri suggellato da parole in senso amoroso. Grazie Mario. Adesso passiamo a Franco. Franco 2, perché ce ne stanno due qui dentro, non ve sbagliate. Ti mi ha fatto pensare di questa donna che... parla col suo lui, il suo, non so se marito, fidanzato, compagno. Cerca lei in quelle parole che dice, che poco ho capito, non è, in ogni modo lo sguardo l'ho capito, che cerca ancora di poter riallacciare con questo... Con questa persona. Insomma, delle conferme lei cerca. Lei non è sicura, lei nel suo parlare non è che gli dice vattene, non ne voglio, posso più sapere di te, eccetera, ma ancora ancora lei cerca un qualcosa, qualche parola da lui, magari una riconferma, un qualcosa, infatti il suo sguardo che si gira ma poi si ritorna ancora indietro verso di lui, quel cercare, lei cerca ancora, come ripeto, questo dialogo verso di lui, cioè non è, per me, per lei non è un amore spento ancora, okay. Ancora un amore vivo, un amore gozato. Invece per te l'amore che cos'è? Cosa ti trasmette? Perché ce ne stanno vari modi di amore, amore per tua moglie, per i nipoti, per i figli. Che cos'è l'amore? Cioè, come la vivi tu con la parola amore? Amore è voler bene una persona, sentirsi veramente amati e amare, quello è amore. E anche cioè, aiutarsi a vicenda. Amarsi, appunto, amarsi vuol dire aiutarsi pure a vicenda, perché se io ti amo, io è logico ti aiuto, io faccio le cose che vuoi tu, tu fai le cose che voglio io, quello è amarsi, diciamo, amore nel senso reciproco delle cose da fare, farle insieme, con un certo tenore di bellezza, di gioia, quello è amore. Ok, grazie Franco. Adesso parola alla dottoressa Maria, che di amore ne sa qualcosa. Prego Maria. Oddio, io ne so pochissimo d'amore. Come pochissimo? Però... sì. Ragazzi, se state in linea, ragazza cerca amore. Sono una neofita, sono sempre una neofita. Comunque questo mi fa pensare... forse all'amore di coppia, no? Che e mi viene da dire che non è il semplice, non è la semplice somma di un maschio e una donna, no? È qualcosa di altro di cui bisogna sempre aver cura. Il tipo si ama una persona, però si ha cura di quell'amore. E questo mi viene in mente dalla frase che lei dice: vorrei non amarti o amarti meglio. Quindi non è una cosa definitiva. Aspetta, non si ama sempre. Come dice questa parola? Lei dice: vorrei non amarti o amarti meglio. Molto meglio. Così gli dice, no? Vorrei amarti o amarti molto meglio. E questo implica un lavoro su questo. Non è una cosa che è lì, ti amo e basta quello. No, bisogna prendersi cura di quest'amore, no? E non essenzialmente, anche dell'altra persona, di riflesso ci si prende cura anche dell'altra persona. Okay. Penso questo. M'ha fatto Grazie venire. Dottoressa, per la sua performance, prego, sinceramente. Prego. Adesso parola al mio amico... Giorgio. Al mio amico Giorgio. Giorgio, mi ero dimenticato Giorgio, il nome, Giorgio, scusatemi. Giorgio, qual è Giorgio? Giorgio, allora, va bene. Niente, questo fotogramma di questo film di Antonioni ci fa vedere questa Monica Vitti così affranta, così, io ho detto rassegnazione, anche così rassegnata. La segnata si volta e fa due scalini e poi dice questa frase che è proprio di rassegnazione. Ok, grazie. Allora, adesso vorrei interpellare Antonio. Ecco, grazie. No, mi interessava sapere questo fatto della rassegnazione, perché prima infatti abbiamo un po' raccolto un po' di parole rivedendo questa scena. Infatti una delle parole che è uscita fuori, che ci fa venire in mente questa immagine, questa spezzone di film, è rassegnazione. Ok? Poi ci siamo soffermati a vedere i diversi sguardi di Monica Vitti e ogni piccolo frammento di sguardo un po' raccontava qualcos'altro di questa vicenda. Noi non sappiamo cosa è successo prima nel film, cosa è successo dopo, però magari è interessante ora leggere queste frasi che abbiamo scritto prima. Quindi darei la parola a chi vuole leggere. Roberto, prego. Allora, amore travagliato che insinua in un amore aperto. Vorrei non amarti o amarti molto meglio. Amarti è pugnalare, amarti è immenso il cuore, amarti è come aprire l'anima, amarti è impazzire, amarti è paura di soffrire, amarti è ledere la mente. In fondo al burrone è sempre scoprire un amore intenso. Amarti e non dico niente. Amarti è fantasia. Amare è passione e confusione. Amarti è contrattare. Bugie. Amarti come sopra ogni cosa. Incertezza, aspettare, stare in attesa. E speranza, smarrimento, scelta, insicurezza, aspettare un bacio, aspettare una risposta. E infine rassegnazione. Mamma mia, che fatica, ragazzi, però. Cioè, st'amore, tutte queste cose, però. Oh. Quindi, volevo quindi abbiamo diverse frasi, ci sono alcune che sono molto interessanti. C'è ad esempio Lidia che ha detto anche amarti e pugnalare. Ci puoi spiegare bene questo? Amarti e pugnalare. Amarti e impazzire, amarti e pugnalare. Amarti è uno sfogo tra amare una persona, un oggetto, un indumento, cioè amare vivo e amare morto. Morto, amare morto, gli indumenti, qualche cosa di incommensurabile. Amarti vivo è l'amare fisicamente un corrispettivo di sesso o maschile o femminile. E amarti, com'è? Amarti è pugnalare. È pugnalare la roba di scarto e portare avanti l'amore, che è qualche cosa che ci rende sublimi, amorevoli, dialoganti. Ok. Poi abbiamo anche amarti e contrattare. Che vorrà dire amarti e contrattare? Non l'ho capita, anche perché l'ha detto la dottoressa Maria, se ce lo può spiegare. Ma che è? Un lavoro a cambiare? A cambiarlo a bollettini, come facciamo st'amore? Come facciamo st'amore? Quello che penso è che credo che quando due persone stanno insieme, in qualche modo noi non troviamo sempre la persona che riempie i vuoti che noi non abbiamo, no? Magari. Quindi io amare posso... anche riempire i vuoti. Anche. Però io posso essere disordinata e la persona che mi affianco è disordinata. Allora lì è un contratto inconscio che si fa, no? Non ho capito. Neanche io, la dottoressa sta uscendo fuori. Sta sviando la situazione. Anche quando si va a convivere, si entra in una contrattazione degli spazi, non è come vivere da soli. Quindi amore è già convivenza, insomma. Convivenza anche di idee, convivenza di tutto, oltre che fisica. E la convivenza comporta una sorta di contrattazione, no? Non ho capito, due persone disordinate quindi stanno bene insieme? Non è detto. Però si arriva ad una decisione comune, e una decisione comune passa attraverso una contrattazione. Quindi amarsi è anche un compromesso. Amarsi è un compromesso, allora. Amarsi vuol dire anche accettare delle cose, accettare altre, insomma, cioè, quindi vuol dire che è un rapporto di coppia, come diceva lei. Sei andato benissimo, ha un certo stile. Compromesso forse non è rimanda. rimanda ad una non lo so, mi rimanda ad un'immagine negativa il compromesso, no? Si rinuncia a qualcosa per ottenere altro. Penso che non è così, penso che la contrattazione, per quanto sterile può essere il termine, però rispecchia di più del compromesso. Il compromesso mi rimanda a qualcosa, che sto perdendo qualcosa, no? Sto rinunciando per avere dei vantaggi. E anche la contrattazione, mi sembrerebbe. La stai accettando, oltre che la cosi la accetti anche, insomma, che ne so. Sì. Ma il compromesso, secondo me, nella mia visione, c'è, io voglio qualcosa e qualcuno mi dice, vabbè, se vuoi ottenere questo devi rinunciare a qualcos'altro. È un compromesso. La contrattazione, ci mettiamo tutti e due in gioco. Va bene, non siamo d'accordo a questo. Allora, dice, è un rapporto molto vivace con l'altra persona, cioè proprio a litigare, diciamocela tutta. Mi piace un rapporto legale, soprattutto. In patafisica, che vuol dire amare? In patafisica, che vuol dire amare? Non lo so. Questo sappiamo, la patafisica è la scienza delle soluzioni impossibili. Quindi, un amore che sta finendo, ad esempio, se vogliamo salvarlo, quale può essere una soluzione impossibile? Una soluzione impossibile per salvare un amore, quale può essere? Un amore impossibile. Salvare un amore che sta finendo attraverso una soluzione impossibile. Che la persona, dipende chi è che avrebbe cominciato, chi è la persona che più cerca di lasciar stare, che però venga un compromesso, cioè venga un po', deve lasciare. Lasciare un po' di peso. Cioè, deve lasciare, deve staccarsi un pochettino, cedere. Cedere. Cedere. Se uno cede, una delle due persone, si potrebbe anche. Però poi dopo, certo, ti cambia pure la mentalità, non solo cedere. Io parlo se un uomo. Poi se anche la donna è lo stesso. Perché poi dipende da chi veramente è uscito sto fulmine. Ok, quindi un po' sottrarsi e rilanciare. Sottrarsi, cedere e rilanciare. E rilanciare, è logico, sì. Io cedo un attimo, a me mi è successo personalmente, che ho provato di cedere, ma poi invece non è successo quello che doveva succedere. Hai capito? Perché? Okay. Perché l'altra persona non ha capito neanche il fatto mio di cedere. Hai capito? Ok. Un'altra cosa che abbiamo scritto è amare e aspettare. Amare e aspettare. No, io volevo dire quando finisce un amore bisogna fare tanto al santuario del divino amore e aspettare. Aspettare in questo senso. Certo, ti metti lì, ti inginocchi, preghi e aspetti che qualcuno verrà. Cosa ha detto il santuario? Il santuario. Ma mi sta tocca aspettare tanto. Famo prima a prendere la pensione, siamo forse. In parafisica lui, eh? Ah, in parafisica? Ok. A te non la sai la parafisica? Io non la conosco. Antonio, spiegami la parafisica. La parafisica è la scienza delle soluzioni impossibili. Dell'immaginario. Dell'immaginario. Attraverso l'immaginario troviamo delle soluzioni impossibili che... Che appunto poi riportano la patafisica, insomma. Ecco. Vabbè, Roberto, sei perso. Mi sono perso qualche puntata, scusate, ragazzi. Roberto, te la chiudo io. In poche parole, la patafisica si parte che intanto mentiamo, però c'è la patafisica. Cioè. Infatti abbiamo scritto tra varie parole anche bugie. Amassi è anche dire bugie. È vero? Si dicono bugie in amore? Servono? Chissà. Si dicono bugie sempre. All'inizio di finire l'amore si possono salvare, cercare di salvare con un po' di bugie. Ok. Diciamo così. Tanti rapporti a volte servono le bugie. Diciamo che la maggior parte i rapporti... Se c'è più sincerità, ma ci sono più bugie. Se vai a vedere un rapporto quando finisce, c'è poco da fanno fare. Che poco da fare. Sì, sì. Una volta che te lasciano, te lasciano. Santo Pedro, è a Divino Amore. Sì, è a Divino Amore. Dai, io questo Divino Amore. Va bene? Qualcosa del trovi, dai. Io farei interpellare le due ragazze, la dottoressa. Allora, sentiamo Giulia che... Giulia, bugie, smarrimento, bisogni. Quale di queste parole un po' ti sembra che... Riprendo la parola invece di Maria sul contrattare l'amore. Ah, il compromesso contrattare vi piace. La legalità nel rapporto vi piace. Penso che l'amore siano due persone con due mondi opposti, cioè la diversità, non siamo tutti uguali e questo è importante. E quindi bisogna contrattare nel senso che bisogna rispettare il mondo dell'altro e accettare anche se è completamente diverso dal nostro, per questo contrattare. Quindi accettare e rispettare anche il mondo dell'altro con i suoi spazi, con le sue idee e poi creare un piccolo mondo dove c'è la coppia. Okay. Però rispettare appunto i propri mondi, per me questo significa un po' contrattare. Un po' possiamo dire due bolle di sapone che a un certo punto si incontrano in aria e si uniscono e fanno una sola bolla, poi magari si staccano e si possono rincontrare in volo. Ma forse una volta, forse una volta. Adesso queste cose non succedono più. Non c'è più il sapone di una volta. No. Siamo in patafisica, certo, certo. Smarrimento. Amore, smarrimento? Io direi di no. Ma scusi? Io. Prego. Perché non è? Fabio. Perché non è? Come? Dove sei stato? Dove sono stato? Io qua. Tu sei uscito. Io sono detto. Amore, smarrimento. Io no. Tu dici di no. Amore, smarrimento nel senso che la canzone che devo cantare, quella canzone che mi è venuta in mente. Prego. Tu cagno e cagnere ma fa oi a te, i stocchi non sanno che si fa. Mi ricordo poi. Okay. Una canzone? Una canzone. Prego. Se potessi avere 1000 lire al mese. L'amore è smarrimento secondo te? No, è ricerca di qualche cosa, è cercare le similitudini tra l'una e l'altra parte, fare una cernita e mistificare e bere il filtro dell'amore. Oh, magnifico. Amore e ricerca. È ricerca? Amore sì, è anche ricerca secondo me, uno cerca sempre magari un compagno, una compagna. Sì, ma fino a un tot del limite, perché te possono capire pure che le altre persone ti fanno passare un mese, due mesi, tre mesi, cioè, dimostrata tutta fra una perdita di tempo. Come, non ho capito. Poi pure incappare a persone che comunque tu cerchi comunque un qualcosa che loro per il momento non ti danno. Aspetta e spera. Come si dice? Aspetta e spera. E come sono fatto io, giro, porto pagina, cambio libro e si va avanti. Okay. No, adesso non è facile comunque. Però magari aspetti quella giusta. Eh sì, se continuiamo a aspettare quella giusta, se invecchiamo. Lo so. Come ha detto il dottore laggiù, a Divino Amore, non so perché sempre questo Divino Amore ce poi. In mezzo pure te. Un'altra cosa che abbiamo scritto prima è amarti e paura di soffrire. Vabbè, sta nella norma comunque. Cioè se ami una persona comunque hai paura di perderla. Quindi mentre ami c'è sempre una paura che soffrirai. Se ami veramente penso che sia normale. Cioè, sì, d'accordo. Forse sì, è quello che io dicevo, no? Che non è che si ama e basta, si ama e ci si impegna. E forse la paura di soffrire può essere vista come un impegno all'interno di una relazione. Paura di soffrire? Paura di soffrire, se io sono molto geloso, voglio bene alle persone, però è logico che ho paura di soffrire, perché nel senso che essendo geloso è ecco lì che poi basto tutto, la mia gelosia, facendolo scoprire a lei, le cose non vanno bene, perché la gelosia rompe parecchi amori, rompe. Amarti è paura di soffrire. È paura dell'amore. Se tu vuoi bene una persona, sei innamorato, la paura non ci deve essere per niente, perché sono due cuori che si toccano, due cuori che si amano, che paura ci devi avere. Però se poi dopo tu invece sei magari un tipo troppo geloso, sei troppo cosato, ecco la paura che ti viene, capito? Allora o non capisci bene lei, se non hai veramente, cioè tu frequenti questa ma non la capisci veramente al 100%, ci sta sì la paura dopo, perché l'altra paura dove può venire? Grazie. E amarti oppure fare un salto in fondo al burrone e trovare... E trovare il vuoto. Amarsi è essere, andare all'unisono. Quello che fa l'uno fa l'altro, i pensieri dell'uno sono i pensieri dell'altro. Unire i pensieri. Una cosa importante nell'amore, diceva Lidia, è avere una condivisione dei pensieri. Quindi guardarsi e attraverso lo sguardo comprendere esattamente l'altra persona cosa sta pensando. E finché succede questo... Amore in sintonia, quando c'è questa cosa, c'è questa fusione, c'è questa fusione. E poi stavi dicendo prima... Tuffarsi da un burrone insieme e che trovate? No, che burrone, lascia perdere quello burrone. No, prima che avevi detto... Paura di soffrire. Paura di soffrire, paura di amare, è la stessa cosa. Cioè nel senso, se ha paura di amare, se ha paura di soffrire, insomma. Cioè se ha paura di amare, forse perché amando si avrà paura di soffrire. Direi di no questa cosa, non è così. Io direi che se hai paura di soffrire, hai paura di amare, insomma. Ok. Siamo all'ultimo minuto di trasmissione, quindi dobbiamo chiudere perché abbiamo il 29esimo minuto. Sigla di coda. Allora, un saluto a tutti, speriamo di non avervi annoiato. Ci vediamo alla prossima. E sigla. Faremo un ubriaconi che abbiamo bevuto, però. Arrivederci.